Non sarà per le mie dimensioni, non sarà come ho fatto l'amore. Tu mi accetti, ami i miei difetti, le mie contraddizioni, i miei errori, i miei progetti. Perché adesso voglio un tempo imperfetto, perché tu non sei né un bagaglio né un oggetto. Non sarai, non sarai, non sarai un'illusione. Io con te maturerò e sarà un'altra stagione. Quando torno dal lavoro stanco, sono poco lucido, frenetico, non parlo. Tu mi abbracci comunque vada, la mia giornata sei la mia casa. È una vita che ti aspetto, è una vita che ti cerco. Le piccole cose assumono sapore, nella tua natura c'è premura del mio cuore. Shine.